Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio, ben ritrovati, ultima puntata del 2025 di Zibaldone. Di cosa parliamo? Dai, lo sapete. Someone found a lighted house late one night, and he saw through the window a sight. A big man in a chair, and little tiny men everywhere. He's the man with all the toys. How thrilled that someone must have been. And he must have been tempted to go in. He stayed out in the cold, and when he left them he told about the man with all the toys. Vabbè, avete riconosciuto lo stile, è quello dei Beach Boys, era il 1964 quando usciva questo brano, The Man With All The Toys, l'uomo con tutti i giocattoli, i giochi. Banzo, dai, innanzitutto buon pomeriggio e ben ritornato a Zibaldone, ultima puntata della stagione, i nostri aficionados già sanno di cosa parliamo e soprattutto dopo forse aver ascoltato il testo di questa canzone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Beh, come succede ormai da qualche anno, l'ultima puntata della stagione dell'anno solare, ecco, diciamo, è dedicata alle canzoni di Natale, perché ci avviciniamo a questa festività che inevitabilmente ci troviamo davanti a fine anno e quindi è già l'ottavo volume delle canzoni di Natale, le canzoni di Natale volume 8. E come al solito, insomma, se ci avete seguito gli anni scorsi, un po' la nostra premessa per questa serie di canzoni è cercare di proporre cose un po' diverse dal solito, perché col Natale quello che succede è questo, cioè le canzoni sono sempre le stesse. Sembra che ne siano state scritte poche, quando in realtà ce n'è un numero sconfinato, come dimostra anche nel nostro piccolo il dato che siamo al volume 8 e non lo so, abbiamo solo graffiato la superficie di questo genere. Comunque sì, diciamo che i Beach Boys sono un buon inizio, anche se è un gruppo che viene associato tradizionalmente a un immaginario un po' diverso da quello natalizio. Il surf, la California, l'estate, eccetera, ma è anche un album, questo natalizio, dal quale è tratto questo brano, faceva parte appunto di un periodo in cui i Beach Boys stavano cercando di distaccarsi un po' da questa immagine, quindi pubblicano questo The Beach Boys Christmas Album con 5 originali e 7 cover, un po' per, diciamo, variare la loro immagine, cominciare a costruire qualcosa di diverso, ed è un album che nasce anche come risposta a un disco natalizio, perché negli Stati Uniti, insomma, sappiamo che la canzone natalizia è un vero e proprio genere, un vero e proprio mercato. Questo album nasce come risposta a un disco natalizio di Phil Spector dell'anno prima, A Christmas Gift for You from Phil's Record, dove Brian Wilson, insomma, il leader, la mente dei Beach Boys, aveva cercato di partecipare come pianista venendo scartato. Sulla canzone, insomma, diciamo che descrive un po' Babbo Natale, siamo in un minuto e venti. Comunque anche un modo, Steven, per ricordare Brian Wilson, che è scomparso l'11 giugno, insomma, non è stato un personaggio secondario nella storia del pop, mettiamola così. Affatto, tra l'altro recupererà Brian Wilson questa canzone in un disco solista che pubblicherà praticamente 40 anni dopo, What I Really Want for Christmas. Insomma, andatevelo a cercare e recuperate anche questo piccolo disco dei Beach Boys Boys del 1964, perché comunque è simpatico, questa canzone anche è divertente, l'avete sentito. Noi però andiamo a bomba, andiamo avanti, perché la nostra ora di Zibaldone è sempre vola, e noi abbiamo tante canzoni che vogliamo farvi sentire, che abbiamo selezionato per questo ottavo speciale di canzoni di Natale dello Zibaldone. Quindi rimaniamo sempre negli anni 60, ma andiamo veramente in un altro luogo con questa Happy Christmas di Joseph Camaru. Sentitevela e poi diremo qualcosa al riguardo. Questo brano è del 1965, Happy Christmas di Joseph Camaru, il che ci porta in Kenya. E per parlarci di Camaru do anche il bentornato al nostro Fausto De Salvia. Fausto, buon pomeriggio, ben ritornato a Zibaldone. Raccontaci un po' di Camaru, che è un personaggio davvero interessante. Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, è un personaggio interessante e ha una carriera lunghissima, praticamente dal 65, che è l'anno di questo brano, fino alla sua morte, che è nel 2018. Ha inciso un migliaio di brani, quindi un numero spropositato, e diciamo lui è un innovatore nel genere del folk kenyota, perché ha fuso i ritmi di ispirazione cubana con la tradizione melodica. Fra l'altro lui apparteneva alla popolazione Kikuyu, quindi un'etnia del centro del Kenya, con un suo particolare linguaggio bantu. Infatti ammetto che non ho potuto tradurre il testo, quindi però ho recuperato il brano, le frammento Gli Gatti Cocò, che vuol dire buone feste in lingua bantù, quindi il brano è un brano dedicato alle festività, però sì, non ho potuto recuperare altro. Mm-hmm. Chi invece ha recuperato molto della sua discografia è il nipote, perché c'è un Joseph Camaro tuttora attivo, che in arte è KMRU, quindi si pronuncia Camaro, che però fa il musicista ambient, molto noto nel genere, sta a Berlino, però sta recuperando da anni la produzione sterminata del nonno, sono centinaia di canzoni che sta mano a mano pubblicando su Bandcamp e quindi ci sta permettendo di riscoprire un artista che in patria era popolarissimo, ha avuto appunto una carriera lunghissima, anche molto impegno politico e anche tantissimi dischi a tema gospel, quindi una carriera veramente molto varia, però in Occidente era praticamente sconosciuto. Tra l'altro no, il nipote è stato anche recentemente a Barcellona e Gironzola anche con residenze artistiche in Italia. Grazie Fausto, e noi facciamo un altro bel salto geografico, perché dal Kenya andiamo in Giappone, rimaniamo un po' in quegli anni, 1970, quando uscì questa canzone di Maki Asakawa intitolata Zenkasha no Christmas. Vabbè, intanto ce l'ascoltiamo e dopo vi raccontiamo qualcosa su questo brano che ci porta nell'underground giapponese degli anni 70. Che bello questo brano e che brava Maki Asakawa. Molti probabilmente non la conosceranno, Fausto, ma parliamo di quella che è stata definita la regina della scena underground della Tokyo degli anni 60 e 70. Sì, è una scena che è passata alla storia col nome di Angura. Uno potrebbe chiedersi, è il frutto? No, non c'è nessun riferimento, semplicemente è una contrazione di come i giapponesi pronunciano la parola underground, cioè pronunciano andagurandu, quindi ovviamente andagurando Angura. È una scena di cui Maki Asakawa è stata protagonista per diversi anni, con molti album molto interessanti fra jazz e blues, fra l'altro un premio Oscar come Ryuichi Sakamoto, ha esordito come suo tastierista in uno di questi dischi. E questo invece è il suo primissimo album. Il titolo Zenkasha no Christmas significa letteralmente il Natale dell'ex detenuto, e appunto parla di questo, di un Natale appunto non proprio allegro vissuto da protagonista, questo ex detenuto che vive una vita di stenti, vive sotto un ponte, è da solo con la neve, con i suoi pensieri, e ripensa con grande nostalgia a quel suo compagno di cella che anche lui è uscito di prigione, l'ha salutato senza dire una parola e chissà adesso dov'è, e sente davvero che gli manca tantissimo. Ecco, in questo brano c'è una tensione omoerotica che ovviamente all'epoca non poteva essere più esplicita, perché siamo in anni in cui in Giappone l'omosessualità è tollerata ma legalmente non è in alcun modo riconosciuta, però è sicuramente un elemento presente. E tra l'altro è interessante, il disco da cui è tratto questo brano si chiama Il Mondo di Maki Asakawa, e questo brano, magari per chi è interessato all'underground giapponese, è stato scritto a partire da un testo di un regista surrealista, Shuji Terayama, che è uno proprio dei fondatori dell'Angura, e arrangiata da un grande jazzista, Kozaburo Yamaki. E noi adesso continuiamo con questi salti geografici e arriviamo in Europa, concretamente in Francia, qualche anno dopo, nel 1973, dove troviamo questa canzone che non è interpretata, lo sentirete, da un francese, però è bella, è un gran brano, fa anche un po' ridere su alcune cose. La nuit de Noël l'année dernière, la terre de Blanche de Neige, mais chaque année était très très triste, le père Noël avait disparu. Hey! Que vas-tu faire? Je ne mens pas, tous les enfants pleuraient. Où est Père Noël? Où est Père Noël? Où est Père Noël? Pour le trouver, pour le trouver, pour le voir ce soir. J'ai regardé toutes les chaussures et elles étaient vides. J'ai regardé dans les cheminées et bien sûr elle n'était pas là. Où est Père Noël? Où est Père Noël? Où est Père Noël? Pour le trapper, pour le trouver, pour le voir ce soir. J'ai demandé à tous les enfants d'espérant qu'ils me diraient, mais ils ne savaient pas et commençaient à prier. Oh, où est Père Noël? J'étais malheureux, j'étais si triste. Je devais trouver le Père Noël pour le monde entier. Il avait tous les jouets sur son traîneau, mais un vieux grand chien l'avait enlevé. Mais j'étais décidé à le remaner. Pour moi, il était évident que le Père Noël était en otage. Je savais, je devais me dépêcher. Alors, j'ai sauté dans ma fusée et j'ai pris les commandes. Fais attention! Soudain j'ai vu le traîneau de Père Noël conduit par Croque-Mitaine. Où est Père Noël? Où est Père Noël? Où est Père Noël? Pour le taper, pour le trouver, pour le voir ce soir. J'ai dit à Croque-Mitaine, si tu veux te battre, tu n'as aucune chance car mes hommes sont terribles. Alors il a reconduit le traîneau sur la terre. Fais attention, tout le monde, parce qu'on arrive. J'ai retrouvé Père Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Vabbè, bisogna dire, Banzo, che la dizione insomma è un po' migliorabile, perché si capisce quasi unicamente Ue per Noël, ossia dov'è Babbo Natale. Lui è rosco e, come avete capito, non è francese. Beh, migliorabile è un pallidissimo eufemismo, però sei di manica larga, Steven, e te lo dice uno. È arrivato Natale, bisogna essere tutti più buoni, dai. Sì, te lo dice uno che sta studiando francese su Duolingo, quindi non un'autorità della lingua. Comunque, sì, ecco, la dizione è migliorabile perché lui, appunto, era americano, come forse si è intuito, questo Roscoe, pseudonimo da DJ di William Roscoe Mercer, cioè il suo pseudonimo è praticamente il suo middle name con uno spelling diverso. Lui era uno dei primi conduttori radiofonici afroamericani che hanno portato soul e rhythm and blues in stazioni FM americane, fino ad allora completamente bianche. Però è come è finito a cantare in francese, ecco, perché questa ecco. È un giro interessante, perché sostanzialmente si trovò a fare i conti con l'ambiente radiofonico americano per via del suo impegno civile, la sua opposizione molto forte alla guerra del Vietnam. Quindi fra il 70 e il 75, aveva già superato i 40 anni, si trasferisce in Francia, dove cura le trasmissioni in lingua francese di Voice of America, e quindi in questo periodo canta questo brano, dove appunto si chiede dove è finito Babbo Natale, perché ci sono i bambini che lo stanno aspettando vicino al camino dove hanno appoggiato le loro scarpe, secondo una tradizione francese che io francamente non conoscevo. Comunque, Steven, qui stiamo anche parlando del testo, ma stiamo un po' ignorando la musica, perché questo fantastico ritmo estremamente fancheggiante, scatenato, è un anello di congiunzione assolutamente improbabile fra la musica natalizia, Babbo Natale, e la figura di John Shaft. John Shaft era il protagonista della serie di film Blaxploitation, e dice, qual è il collegamento? Cioè che la musica che abbiamo appena sentito, la base del brano, era il tema del terzo film della serie Shaft in Africa, in italiano Shaft e i mercanti di schiavi. Appunto sì, viene riutilizzata questa base scritta da Johnny Pate in un contesto completamente diverso, era il terzo film della serie, poi l'ultimo della trilogia classica, poi ci sarà un remake nel 2000 con Samuel L. Jackson, però ecco, insomma, diciamo che è stato un riuso creativo, perché è un contesto abbastanza diverso da quello edificante natalizio. Comunque, come diciamo, a parte la pronuncia, è stato un grosso trionfo, un grosso successo sotto tutti i punti di vista, non so se quello commerciale onestamente, però artisticamente è ben riuscito questo brano. Assolutamente, noi rimaniamo negli anni 70, nel 75 esattamente, e finalmente arriviamo in Italia, più concretamente a Napoli, dove troviamo questa Papà è Natale. Papà, o sai, sono voti caso sbaglione, e certe cose non ne posso capire. Mamma ha sbagliato e tu hai ragione, ma c'è condita mamma è la mia. Ma Vabbè, una canzone davvero strappalacrime che però Fausto ci mostra anche tutto un sottobosco di un genere musicale, diciamo, chiamiamolo così, pulp napoletano, che ebbe molto successo tra la fine dei 60 e gli anni 70. Sì, praticamente è la canzone derivata dalla sceneggiata, che era quella forma di teatro musicale popolare che veramente ebbe un grandissimo successo negli anni 70 e che aveva come re indiscusso Mario Merola. Eh sì. Merola, che abbiamo già messo a Zibaldoni, mi pare, qualche anno fa con Natale in galera. In questo caso il papà non è in galera, ma è lontano da casa. Il protagonista si appella appunto, con i genitori separati, si appella al padre lontano perché torni almeno a Natale in famiglia e reciti la sua parte da grande artista, che faccia finta che nulla sia cambiato davvero, ecco. Ma il protagonista di questo brano appunto è Patrizio, che è poi il nome d'arte di Patrizio Esposito, che all'epoca era un vero e proprio divo della canzone e della sceneggiata. Questo brano, che è il suo primo singolo, vende qualcosa fra originali, versioni pirata, perché naturalmente queste non mancano mai, 900.000 copie, quindi stiamo parlando di numeri pazzeschi. Quindi tra l'altro aveva fatto anche uno sceneggiato in Rai l'anno prima, quindi era giovanissimo, aveva 15 anni. Però la sua carriera, pur partita nel modo migliore, finirà molto tristemente, perché lui viene a mancare nel gennaio dell'84, muore di overdose dopo 6 anni di tossicodipendenza, quindi aveva iniziato molto presto, dopo un arresto per furto e vari tentativi di disintossicazione. Non riuscirà mai veramente a ripartire con la sua carriera e pensa che l'Inigrassia, che aveva lanciato a livello nazionale Nino D'Angelo con i famosi film che conosciamo tutti, sì, no? Luggins, la maglietta, titoli del genere, aveva preparato un film per lui basato su una sua canzone e praticamente lui muore poco prima dell'inizio delle riprese. Patrizio Esposito, papà di Natale, era il 75. Noi adesso ci spostiamo di nuovo negli States, abbiamo cominciato lì con i Beach Boys e nell'81 troviamo questo brano Christmas Wrapping degli Waitresses. Sentitevelo e poi il banjo ci spiegherà qualcosa. Yeah. Beh, qui passiamo dalle lacrime napoletane di Patrizio a questo sound molto più allegro, inizio anni 80 dagli States, Banzo, The Waitresses. Raccontaci un po' qualcosa su questa band e questa canzone. C'è un salto sconcertante, brano veramente incalzante. Dopo Patrizio, sì, ci spostiamo negli Stati Uniti con una compilation natalizia da quale questo brano è estratto, che ha già fatto capolino nelle edizioni precedenti delle canzoni di Natale. La mitica Christmas Record della The Records, anno 1981, ZE, se non avete colto la mia pronuncia, un totale di 9 brani, con questo siamo a 4. Non so, forse per la 20ª edizione riusciamo a proporre tutto il disco, è una possibilità. Sì, questo brano di The Waitresses, un gruppo New Wave dell'Ohio, attivo fra il 78 e l'83, due album e un mini, insomma quelle storie a cavallo fra i 70 e gli 80, New Wave, carriera breve, abbastanza tipica. Loro dell'Ohio, però il leader Chris Butler si trasferì a New York. Questa è una canzone molto newyorkese, non so, una distanza comunque fra New York e l'Ohio. E appunto questa canzone voleva riflettere, nonostante il ritmo allegro, incalzante, come dice, voleva riflettere un po' quello che lui vedeva a New York, che era lo spirito di sopportazione dei newyorkesi verso Natale, una stagione, non so, probabilmente molto stressante per i newyorkesi all'epoca, non so adesso. E in effetti, se ci fate caso, quasi all'inizio, uno dei primi versi dice «Don't think I have the energy», quindi proprio viene riflettere. La cosa che si rispecchia bene nel testo. E comunque, quando è stato composto questo brano? Sì, nel 1981, io lo propose a The Records, però viene specificato che lo scrisse in agosto, perché in realtà non è una cosa strana, perché l'industria della canzone natalizia, che negli Stati Uniti è fortissima anche a livelli più underground come questo, aveva comunque dei tempi, tempi, immagino, anche se si tratta di instant songs in un certo senso, quindi la compose in piena estate, a New York era un po' affosa l'estate, finendo il testo sul taxi mentre si dirigeva verso lo studio di registrazione. E comunque la storia finisce bene, la storia della canzone, sia il fatto che lui arriva allo studio e la registra, sia il testo narrato della canzone. Poi questo brano viene scorporato dalla compilation, pubblicato come singolo nel Regno Unito nel 1981, ma arriva al successo solo nel 1982, sono corsi storici, e questo forse spiega perché, in una catena di eventi impronosticabile, nel 1998 il brano appare come B-side in un singolo delle Spice Girls, all'epoca già quartetto, senza Jerry Halliwell e anche senza la linea di basso bellissima dell'originale. Non è una brutta versione, però se mi doveste fare scegliere. E un'ultima cosa su The Waitresses, perché abbiamo parlato solo di Chris Butler, che era un po' il Deus Ex Machina, però c'è un'altra figura di grandissimo magnetismo, di grandissimo carisma, che era la vocalist Patty Donahue, che infatti viene anche molto ricordata su internet. Scomparsa troppo presto nel 96, aveva appena 40 anni, a causa di un cancro ai polmoni. Infatti Wikipedia riporta proprio che fosse una heavy smoker, purtroppo, perché è un personaggio di grandissimo talento. Andiamo avanti, troviamo i Vestibule con questa Christmas on Acid. A family gathering with presents and fun. Another Christmas and this one's wonderful. Presents and cheer, candy canes and gingerbread men. But wait, the gingerbread men have come alive. They're moving round the room and now they're on fire. They're moving round the room and now they're on fire. Why do I see these things? It's not the rum and eggnog. It's not the holiday punch. It's Christmas on acid. Christmas on acid. stockings full of spiders and snakes. My little cousins have become walking, talking fruitcakes. The whole family's looking at me, 'cause I got the shakes. Why do I see these things? It's not the rum and eggnog. It's not the holiday punch. Christmas on acid. Christmas on acid. The turkey's dancing on Grandma's head, and her eyes are a devil red. Santa's dead, oh Santa's dead. Why do I see these things? It's not the rum and eggnog. It's not the holiday punch. Christmas on acid. Christmas on acid. Beh, qui Fausto, non solo siamo entrati già negli anni 90, ci spostiamo addirittura in Canada, a Montreal, con i Vestibule, spero di pronunciarlo correttamente, ma troviamo anche una canzone non solo breve ma anche molto ironica, che parla appunto di un Natale in acido. Eh sì, infatti, se l'esperienza del pranzo di Natale in famiglia ci accomuna tutti, perché non si può sfuggire indubbiamente a queste maratone gastronomiche, però se ci aggiungi un po' di acido, effettivamente le cose cambiano un po' sapore. E infatti il testo parla di un tacchino che balla sulla testa di nonna, quindi con esiti imprevedibili. Ovviamente i Vestibule non sono una band nel senso vero e proprio del termine, ma un trio comico, appunto, di Montreal. Terence Bowman, Paul Paré, Bernard Deligé. Credo siano ancora attivi anche, diciamo, non si sono mai sciolti, ma fanno soprattutto televisione, serie TV, ovviamente in Canada, che non ho avuto modo di vedere, però sono attivi dal 1987, quindi una lunga carriera. Un'ossessione bizzarra per le scarpe, perché l'album che contiene questa Christmas on Acid si intitola Sketch, Song and Shoes, e appunto loro si esibiscono con delle scarpe in mano, quindi c'è questa ossessione per le scarpe che potremmo chiedere a loro. E hanno un delizioso sito internet che pare graficamente fermo alla fine degli anni 90, quindi non più tanto aggiornato, però anche questo è, diciamo, la storia della comunicazione internet della musica. Eh sì, e noi ci spostiamo ancora più vicini al presente, arriviamo al 2010 con questo brano di un progetto, una band che si chiama The Man That Will Not Be Blamed For Nothing. Beh, insomma, io non vi dico altro, ascoltiamocelo, dopo il Banzo ci racconterà perché si chiamano così. Ah, he's a nasty piece of work. Scrooge's chief enforcer and debt collector. Go out Christmas Eve collecting debts. And his blade, it was so thin. Well, he called it Tiny Tim. And he'd hack and he'd slash till he'd got the cash back. And he'd go out and spend it on women and gin. Oh, Ebenezer, you cunning old geezer. You made them all think you were misunderstood. Now they all love you, they'll all work from you. At Christmas they think that you're Ebenezer good. Questo brano del 2010 si intitola Ebenezer Carol, appunto, di questa band, banzo con il titolo lunghissimo. Stiamo parlando della Gran Bretagna, un gruppo punk nato a Londra nel 2008. Sì, una cosa più inglese impossibile, questo nome chilometrico come citavi, nascono sì nel 2008 con riferimenti allo steampunk, non come genere musicale, perché effettivamente non lo è, ma come movimento culturale, come immaginario, ecco, più correttamente, immaginario soprattutto letterario. Quindi lo steampunk appare sia nel titolo del loro primo album che nel titolo di questo mini natalizio, Very Steampunk Christmas, anche se poi nel corso della loro carriera si sono un po' allontanati da questi riferimenti. Comunque, se parliamo di steampunk, viene sempre fuori l'era vittoriana, è un po' inevitabile, ed è questo il caso, perché Ebenezer's Carol, il titolo del brano, è un riferimento al canto di Natale di Dickens, anche se è un brano completamente autografo. E anzi, se volete approfondire la storia di questo brano per qualche motivo, è molto bello comunque, potete farlo, perché si trova sul blog del bassista del gruppo Mark Burrows un'entrata, un post molto dettagliato dove spiega vita, morte e miracoli della canzone, citando fra le fonti di ispirazione John e Yoko, Wizard, Slade, ma soprattutto Fairy Tale of New York dei Pogues. E qui diciamo che per me sia un po' risolto un arcano, perché mi chiedevo come può un gruppo così visceralmente inglese suonare tutto sommato irlandese, ed ecco perché si è ispirato ai Pogues, quindi ecco, tutto torna. Ascolta Banzo, per chiudere, il nome della band insomma rimanda anche un po' a una cosa che hai già accennato, no? Quest'epoca un po' vittoriana. Esatto, stavo per dirlo, un altro riferimento estremamente vittoriano è quello a Jack lo Squartatore, perché il nome del gruppo sarebbe ispirato a una scritta a gesso, qui l'ho anche controllato, è un po' una scritta a gesso rinvenuta su un grembiule macchiato di sangue in una scena, in una delle scene del crimine attribuita a Jack lo Squartatore. Quindi c'era questa frase, non ho trovato dettagli più specifici, e quindi è stata presa da lì, è diventato il nome del gruppo, perché anche quello, comunque anche Jack lo Squartatore, è diciamo un elemento di immaginario profondamente vittoriano. The Man That Will Not Be Blamed For Nothing, questo è il nome della band, ve lo ricordiamo. Adesso invece noi ritorniamo in Italia, ma proprio all'altro ieri, al 2024, con questa Natale anticapitale dei Queen of Saba. Sentitevela. A Natale siete tutti più buoni e carini, mangi il maiale e poi posti gattini. Spero ti strozzi con quegli ossicini o ti venga un rigurgito antispecista. Ma chi l'ha vista? La voglia di fare i bravi bambini. Un culo Salvini, fumiamo purini. Quest'anno saremo i cattivi cugini, a tavola in piedi a gridare fascista. Be gay, do crime, non voglio regali da Amazon Prime. Se ce la fai, quest'anno alle feste boicotta la RAI. Non voglio vedere più pubblicità di marchi sionisti che fanno pietà. La corsa a comprare la novità, che ti garantisco un posto all'aldilà. Se fossimo ricchi faremmo i cenoni, invece purtroppo noi siamo ricchioni. Anarchici, punk, sentimentali, non mangeremo i compagni animali. C'è una sorpresa nei pacchi regali, libri, transfem e sostanze illegali. Se fossimo ricchi avremmo i condoni, ritiro patente a chi fuma i cannoni. Breaking news in diretta dal margine, siamo onde barbare, faremo da argine al vostro fascismo istituzionale, che ci reprime con forza brutale. No, non crediamo più a Babbo Natale, sappiamo che servo del capitale. Io del mercato non faccio un'indagine, lo brucio e lo salo come fosse cartagine. bella, ironica, politica questa Natale anticapitale. Noi non crediamo più a Babbo Natale, sappiamo che è servo del capitale, l'avete appena sentito, loro sono i Queen of Saba. Fausto, li abbiamo ascoltati recentemente su Zibaldone. Sì, appena 2 settimane fa nel Rapporto Italia ci presentavano un brano dal loro progetto che è appena cominciato, di canzoni per bimbo, quindi canzoni per bambine e bambini con tematiche attuali naturalmente, anche se che si rifanno nel linguaggio alle opere di Gianni Rodari o comunque di tanti altri scrittori migliori del genere. E invece qui facciamo un passetto indietro, loro a Natale dell'anno scorso fanno questo singolo su Bandcamp per raccogliere fondi a sostegno del rifugio Alma Libre, è un rifugio che si trova in provincia di Lucca, dedicato appunto agli animali liberati da allevamenti, e quindi ovviamente c'è questa tematica dell'antispecismo, quindi oltre all'anticapitalismo, che permea tutto il brano. Quindi abbiamo lo swing come musica, tra l'altro loro appunto sono un duo elettronico con vene acustiche, in questo caso invece proprio si dedicano a tutt'altro genere musicale, però con un testo assolutamente contro lo sfrenato, ingordo consumismo dei giorni di festa, che ovviamente ci porta a gozzarci di qualsiasi cosa, fregandoci anche del fatto che la RAI sia appunto sionista, quindi naturalmente, e che sionisti siano tanti dei marchi di cui ci serviamo, Amazon e quant'altro. E naturalmente si ride anche alle fregole repressive della destra di governo, fra virgolette, che naturalmente ben conosciamo, sia salviniana, meloniana. Sono ovviamente tematiche che abbiamo affrontato, loro lo fanno in modo ironico, però purtroppo non c'è tanto da ridere ovviamente. Fausto, è arrivato anche il tempo di salutarci perché siamo davvero ormai alla fine di questo Zibaldone. Grazie per essere stato con noi, ovviamente buon Natale, buone feste, buon anno e ci ritroviamo a gennaio. Buone feste a tutti voi, ci vediamo a gennaio con tante novità. Ciao. E qui andiamo con i Crud Pump con un'altra canzone ironica e con un titolo bello forte, Fuck You If You Don't Like Christmas. I gotta tell you something real about Christmas. Fuck you if you don't like Christmas. Fuck you if you don't like the Panamas and Isthmus. Fuck you if you don't like French fries. Fuck you if you don't like sweet potato fries. Fuck you if you don't like driving a car. Fuck you if you don't like riding in a car. And fuck you if you don't like antiques. That's right. Fuck you if you don't like dead people in coffins. I don't like them either, but you have to be respectful. Fuck you if you don't like compact fluorescents. They cost more, but you save the earth. Fuck you if you don't like staying up late. Fuck you if you don't like waking up late. And fuck you if you don't brush your teeth. That's nasty. Fuck you if you don't like Christmas. Fuck you if you don't like Christmas. Yeah, that's right, it's not even about Jesus, it's about the holiday. You gotta respect the holiday. Fuck you if you don't like Christmas and Kwanzaa. Fuck you if you don't like Eid and Hanukkah. Fuck you if you don't like Thanksgiving. You gotta be grateful. Fuck you if you don't like Goodwill to Men. Fuck you if you don't like presents in the den and stockings hung by the motherfucking fireplace with care. Fuck you if you don't like working for a living. Fuck you if you don't like the spirit of giving. Fuck you if you don't like yams from a can. And fuck you if you don't like honey-baked ham. Fuck you if you don't like eggnog. Fuck you if you don't like other kinds of nog. And fuck you if you don't like reindeer dogs. Fuck you if you don't like Christmas. Fuck you if you don't like Christmas. Fuck you if you don't like Christmas. Fuck you if you don't like Christmas. You know it's not even about, you know, you don't have to put up a cross. You just gotta get out and go to the mall. You know we need different stuff in the economy now. Things are changing. You gotta get out to the mall and just go in the doors. And just open up your mind, you know. You gotta go down to the hat store, give the hat store some money. You gotta go and get some shoes. You gotta get some stuff for your table, man. You gotta get stuff for the Christmas table. No, you can use it on Easter. Multi-usage things. You can go down, you know, you go down to the candle store and you can use those if the power goes out. You just gotta spread it around. You can't just think of yourself. You can't just think of yourself just this one time because it's Christmas. Beh, Banzo, direi che il messaggio è arrivato forte e chiaro di questa canzone di Crowd Pump, no? Beh sì, ma in realtà non è un brano manifesto, perché insomma la butta abbastanza in cacciara, come direbbero in Vermont, dal quale proviene Crowd Pump. Insomma, non va preso sul serio, credo si capisse. Crowd Pump è uno degli innumerevoli alias di The U-Fairweather, anche noto come The U-Toothpaste. Wikipedia lo descrive inizialmente come chimico, poi passa a disegnare fumetti con il webcomic Toothpaste for Dinner, che gli fornisce appunto l'alias di The U-Toothpaste. Poi fa anche un fumetto per i nostri ascoltatori. Dentifricio. Sì, esatto, dentifricio per cena, Toothpaste for Dinner. Poi fa un altro fumetto insieme alla moglie Natalie D, Married to the Sea, ma siccome abbiamo capito è un tipo eclettico, all'inizio degli anni 10 si reinventa come Crowd Pump e comincia a fare hip hop praticamente, anche se poi andiamo a cercare le ultime uscite di Crowd Pump, sono degli strumentali 2021-2023, strumentali funk electro, abbastanza easy listening, quindi vabbè, insomma, gli piace saltare il palo in frasca. Ma torniamo un attimo al testo della canzone, che in realtà, dicevo, sì, è un messaggio forte e chiaro, ma non è un messaggio, perché poi spesso elenca tantissime cose che non hanno niente a che vedere col Natale. Ad esempio, non so, cito una frase: fanculo se non ti lavi i denti, è disgustoso. Per dire, siamo d'accordo. Beh, per uno che si chiama dentifricio, immagino che sia importante, ecco. Esatto, non ci avevo neanche pensato, grazie Steven, perché è giusto così. E poi dice che comunque ciò che è importante del Natale non è Gesù, ma è lo spirito festivo. Poi fa anche dei riferimenti, anche qui credo ironici, al far girare l'economia, perché vengono citati gli onnipresenti shopping mall, che in America sono un po', diciamo, ascolta, le altre chiese. Banzo, siamo davvero agli sgoccioli, dobbiamo presentare l'ultima canzone con cui ci salutiamo, che è un progetto importante, è molto bello ed è un omaggio in fin dei conti a Paolo Benvenu, e in questo caso insieme al piccolo coro dell'Antoniano, con questa Buon Natale anche per te, che è stata incisa recentemente. Sì, esatto, un omaggio dovuto, perché Paolo Benvenu ci ha lasciato lo scorso 31 dicembre, quindi ormai è passato già un anno. Ne abbiamo dedicato uno speciale nella scorsa stagione, si intitolava Frantumare le distanze, andate a recuperarlo. E questo brano postumo, diciamo, torniamo alla musica per bambini in un senso più classico, appunto col piccolo coro dell'Antoniano, nasce da un laboratorio scolastico che Paolo aveva tenuto nella scuola primaria Bruno Ciari di San Sisto, Perugia, dove studiava sua figlia, e insieme ai bambini aveva creato il testo e messo in musica questo brano e un altro, Natale Infinito, che appunto dovevano essere cantati in coro nel saggio finale di Natale. Ci teneva molto a inciderlo col piccolo coro dell'Antoniano, e purtroppo appunto questa incisione è avvenuta solo in modo postumo, recuperando la sua traccia vocale. E la parte orchestrale del brano vede protagonista l'orchestra multietnica di Arezzo, che da molti anni affiancava Benvenu, e appunto da quale avevamo parlato anche nello speciale che menzionavo prima. Quindi diciamo che dopo tanti brani dissacranti abbiamo voluto chiudere con qualcosa di più tradizionalmente natalizio, in un certo senso, e anche per ricordare un grandissimo personaggio che non dimenticheremo mai e continueremo a ricordare anche nei prossimi anni. E con questa canzone ci salutiamo, ricordando anche Paolo Benvenu. Buon Natale, buone feste, ci ritroviamo l'anno prossimo per altre puntate di Zibaldone. Come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che tutti i venerdì alle 17.56 diceva: non lo so, io, cioè, è un'esperienza curiosa sicuramente, però il Natale sotto acidi non lo proverei, ecco, mi limiterei a mangiare come in maniera esagerata, ecco, gli acidi li lasciamo a qualcun altro. Ciao Banzo, buon Natale! Buon Natale anche per te, anche quando non c'è e la neve non scende dal cielo. Sia la pace, gioia e amore, anche quando piove, ogni notte. persino agli uccellini, alle piante, al cielo ed al mare. Piove ogni notte, sorpresa e stupore.